noi siamo veramente assolutamente increduli di questa vicenda, perché vi erano state assicurazioni e diciamo così dichiarazioni del primo ministro, di Silvio Berlusconi, che noi avremmo avuto lo stesso trattamento delle altre aree colpite dal terremoto. Per la precisione, il problema non è di tornare a pagare le tasse, perché noi stiamo pagando, pur stando ancora in piena emergenza, tutte le tasse dal primo di luglio. Qui si tratta di avere un rinvio per la restituzione di quello che non abbiamo pagato nel periodo di sospensione, nei 14 mesi della sospensione. Negli altri terremoti, prendiamo l'Umbria, Marche, il Molise e così via, la restituzione è avvenuta al 40% dopo 12 anni in 10 anni. Noi siamo chiamati a restituire dal primo di gennaio, saremo chiamati a restituire il 100% in 10 anni. Cosa vuol dire? Che in questo momento che siamo in piena emergenza, noi saremo il pezzetto d'Italia, quel pezzetto piccolo nel centro della penisola, che pagherà più tasse. Cioè